Uno, due, tre. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Alle 7:20 minuti in punto siamo pronti qui a leggere i giornali per voi, detto che oggi come ospiti avremo il presidente del Tribunale di Milano, Livia Pomodoro, ai nostri microfoni alle 8:15 in diretta per parlare, insomma, di questa definizione di giudichesse comuniste e femministe da parte di Silvio Berlusconi, la causa Veronica Lario Berlusconi. E poi parleremo ancora di sprechi, sprechi in Sicilia questa volta. Si sono comprati spese da gioiellerie, macchine. Ovviamente questa è l'accusa della Guardia di Finanza, i consiglieri regionali, che però lì si chiamano deputati per lo statuto speciale, deputati regionali. Continueremo come ieri in Lombardia, oggi a parlare di quello che succede in Sicilia, raccontarvi qualche notizia. Intanto andiamo allora a vederli questi giornali che trovate in edicola. Giovedì 10 gennaio. I titoli, il Sole 24 Ore per l'ennesimo giorno sulla questione casa e sulle spese che riguardano gli italiani, in questo caso i mutui. Mutui casa calano in Europa, ma in Italia restano al 4,05%. La notizia è questa: i mutui sono al minimo storico in tutta Europa. Indovinate qual è il paese dove sono al massimo? Quello lì, il nostro, l'Italia. 4,05% i mutui. Il Corriere della Sera, i redditi perduti delle famiglie, questo è il titolo di apertura, lavoro e prezzi in 10 anni, 1.000 euro al mese in meno per le famiglie italiane. Repubblica, strettamente sulla politica, Bersani, Monti, non aiuti Berlusconi. E così anche il Secolo XIX, Bersani e Monti ai ferri corti. Il Messaggero, alleanze, duello Bersani-Monti. Anche l'Unità lo stesso titolo, il duello Bersani-Monti, mentre il Fatto Quotidiano si concentra su Crisafulli, uno dei cosiddetti impresentabili per il Fatto Quotidiano, candidato nel PD. Dossier Crisafulli, candidare quest'uomo, e c'è la pubblicazione di un rapporto top secret dei carabinieri sul senatore siciliano del PD. Libero, zero tasse sul lavoro, la bomba di Silvio, e l'annuncio ieri a Porta a Porta. La Stampa, tasse e alleanze, scontro a tre. Il Giornale, Berlusconi gioca il jolly, zero tasse a chi assume. Mentre il Manifesto, sfondone monetario. Ci siamo sbagliati. Il capo economista del Fondo Monetario Internazionale spiega in uno studio che l'austerità e i tagli imposti a mezza Europa devastano debito pubblico, PIL e occupazione. Monti che ne dice? Questa è l'apertura del Manifesto. Mentre per Avvenire ancora la politica che ritorna è duello Bersani-Monti. E così per il giorno, Monti schiaffo a Bersani. Insomma, io voglio partire però da una sentenza in qualche modo storica, alla quale possono guardare tanti imprenditori che lavorano con il pubblico e che si vedono costretti all'ennesima, alle tante, alle consuete, ai soliti ritardi nei pagamenti per le commesse fatte con il servizio pubblico, con le amministrazioni pubbliche che pagano poi altro che a 30, 60, 90 giorni, a volte ad anni quando pagano, e facendo trovare le imprese poi in gravi situazioni di difficoltà di liquidità. La sentenza, racconta il Corriere della Sera a pagina 26, a firma Giuseppe Guastella, l'imprenditore che evade il fisco assolto perché le ASL non pagano. Una pubblica amministrazione che per anni non paga i propri fornitori non può pretendere di processarli se poi questi non sono in grado di sborsare immediatamente le tasse. Sono due sentenze, in realtà, di altrettanti giudici di Milano che assolvono dall'accusa di evasione fiscale un imprenditore e il responsabile di una comunità famosa per tossicodipendenti, la comunità Saman, diventati evasori fiscali a causa dei ritardi nei versamenti dei fondi pubblici indispensabili alla vita delle loro attività. La prima causa riguarda la Sintea Plustec di Assago, in provincia di Milano, che produce e vende protesi vertebrali. Dal 2005 ha fornito prodotti per 1.700.000 euro a tre ASL e un ospedale della Campania, ma che non hanno mai pagato, oppure hanno pagato come una lumaca burocratica. e quindi a causa delle fatture che aveva dovuto emettere senza incassare, nel 2008 la società si è trovata a versare al fisco 180.000 euro di IVA e in cassa soldi non ce n'erano. Le procedure di riscossione dell'Agenzia delle Entrate hanno dato il via nel 2012, insomma tutto si mette in moto. Si richiede un decreto penale di condanna a 6.840 euro di ammenda nei confronti di Paolo Guerra, legale rappresentante dell'azienda, ma alla fine il giudice lo ha assolto perché il fatto non costituisce reato. Eccolo qui dunque l'imprenditore che va del fisco assolto perché le ASL non pagano. Sentenza simile anche per la comunità Saman, fondata nel 1981 da Maurizio Rostagno, che fu poi ucciso 7 anni dopo in un agguato da assassini ancora ignoti. Dunque, due sentenze simili, ma davvero in qualche modo storiche. Imprenditori che non hanno potuto versare al fisco ciò che dovevano perché a loro volta i servizi delle amministrazioni pubbliche non gli hanno pagato le fatture e, seppure tecnicamente evasori, sono stati assolti. Invece, eccoci qua, mani ben ferme sul volante, mi raccomando, ma se siete nel traffico, soprattutto se ci sono tornanti, come qualcuno una volta mi ha scritto su Twitter, sul mio profilo Alino Milan, ma io faccio strade con i tornanti, non dia tante notizie da tenere mani sul volante, perché sennò la questione... invece no, tenetele bene, bene salde sul volante, perché andiamo su Libero a raccontare ciò che dice Franco Bechis, a pagina 6, che riguarda l'ultimo decreto del prof, questo è il titolo, soldi ai libici e ad Assad. Allora, in questo momento di florida situazione economica italiana, floridissima, ci sono, secondo Libero, degli sprechi assurdi. In che cosa? Nella legge approvata a fine anno, alla fine di dicembre, sul rifinanziamento delle missioni internazionali. Legge importante perché bisogna rifinanziare gli stipendi, gli armamenti, le infrastrutture, i quasi 10.000 soldati che sono all'estero, ma, scrive Libero, si è trasformato in una sorta di legge omnibus in cui vari ministeri hanno infilato microfinanziamenti a pioggia. Per esempio, stanzieremo lo Stato italiano 200.000 euro per formare candidati tra 30 giornalisti della Libia, per formare giornali indipendenti con l'obiettivo di lavorare e favorire lo sviluppo di una stampa di qualità. O ancora in Siria, dove c'è una guerra tra l'altro in corso. Per far breccia nel cuore di Assad, scrive Franco Bechis, il premier italiano Monti ha deciso di investire 1,7 milioni di euro, per esempio 248.000 euro per il dialogo nazionale in Siria e sostegno al rafforzamento dell'istituzione parlamentare e poi 300.000 euro per formare giudici in Siria. Ma poi c'è anche questo, i reparti logistici e i responsabili dell'equipaggiamento dei soldati italiani in giro per il mondo hanno deciso di regalare anche delle cose che costano. E sono queste: in Libia regaleremo 80.000 tubetti di dentifricio, 30.000 slip di cotone, 150.000 saponette, 40.000 spazzolini da denti completi di astuccio, 30.000 creme da barba, solo 200 spazzole per i capelli, ma scrive Libero, si sa, in genere i militari portano i capelli corti, 30.000 magliette di cotone bianche, 19.635 cinture militare color khaki, 6.752 camicie khaki mezza manica, che fa caldo, 2.374 camicie khaki manica lunga, 3.826 cravatte color khaki, 28.741 pantaloni, sempre khaki, 6.177 pantaloncini corti khaki e 1.900 pigiami e altro vestiario. Come cantava Elio, siamo il paese dei khaki. Ci fermiamo per la pubblicità, il meteo e poi ci tuffiamo nel lagone politico raccontato dai giornali. Allora, alle 7:33 minuti, sono giorni e saranno sempre più giorni di dibattiti, di trasmissioni in cui si parlerà di campagna elettorale. Non so se vedrete questa sera, forse la trasmissione più attesa da questo punto di vista, Berlusconi che andrà a servizio pubblico da Michele Santoro e Marco Travaglio. sui giornali già ci si concentra su quello che succederà stasera, tra poco lo vedremo. Ieri però nell'intervista, nell'apparizione di Berlusconi a Porta a Porta, si è parlato ancora di tasse, soprattutto di quello che spinge il giornale Libero a fare il titolo sul jolly di Berlusconi, che è questo. Pagina 11 del Sole 24 Ore racconta Nicola Barone: a proposte forti i sostenitori di Berlusconi sono ormai abituati, e Porta a Porta ieri al terreno ideale, così è stato. Cosa ha proposto Berlusconi? Bisogna arrivare a qualcosa di eccezionale, ammette apertamente l'ex premier. Abbiamo 4 milioni di imprese in Italia, si potrebbe dire loro: se assumete anche una sola persona in più con un contratto a tempo indeterminato, non pagherete per 3, 4, 5 anni né contributi previdenziali né tasse. In pratica, come assumere in nero qualcuno per 4, 5 anni. Questo ha detto lo stesso Berlusconi. È chiaro, subito il dibattito, è una promessa elettorale che vale il tempo che vale, qualcuno ricorda anche il milione di posti di lavoro. Certo, il Corriere della Sera a pagina 5 fa un riassunto con Enrico Marro: giù le tasse e nuovi posti di lavoro, tutte le mancate promesse elettorali. E si riepilogano, per esempio: vince Berlusconi nel 94, il 22 giugno del 94 il suo ministro del bilancio, il leghista Pagliarini, già mette le mani avanti: mi sembra molto difficile ridurre la pressione fiscale, nonostante in campagna elettorale avessero detto altro. Due settimane dopo il collega del tesoro Dini aggiunge: se riusciremo a mantenerla invariata sarà già un successo. Il primo governo Berlusconi dura appena 7 mesi. Nel 96, prelievo complessivo salita al 41,6% del reddito nazionale, ci sono le elezioni. Questa volta vince l'Ulivo di Prodi. Nel programma scrive che la pressione fiscale resterà inalterata nei primi 2 anni per poi scendere negli ultimi 3, ma anche il professore dura poco, 2 anni e mezzo. Nel 97 la pressione schizza i 2 punti al 43,7% per colpa dell'eurotassa. Nel 98, senza più questa una tantum, la pressione scende al 42,3 per restare su questo livello anche nel 99, calare poi fino al 41,3 negli ultimi 2 anni del centrosinistra con D'Alema e Amato. 2001, nuove elezioni, ritorno di Berlusconi, il programma della Casa delle Libertà, la coalizione di centrodestra promette niente tasse fino a 22 milioni di lire di reddito, aliquota del 23 fino a 200 milioni e del 33% sopra. Berlusconi prende questi impegni, la creazione di 1,5 milioni di posti di lavoro, firma il famoso contratto con gli italiani, eccetera. Alle elezioni poi del 2006, dopo le promesse, scrive Marro, non mantenute nel 2001 perché il fisco è insaziabile ma anche iniquo. Alle elezioni del 2006 Berlusconi si ripresenta, anche se aveva detto: se non riuscirò a rispettare il contratto non mi ricandiderò. Questa volta l'effetto annuncio è via l'ICI sulla prima casa. Prodi invece garantisce la riduzione di 5 punti del cuneo fiscale, la differenza tra costo del lavoro lordo e retribuzione netta. Il professore vince, taglia i 5 punti, ma non se ne accorge nessuno. Insomma, arriviamo al 2008, l'ultima vittoria di Berlusconi: vogliamo ridurre la pressione fiscale sotto il 40%, non metteremo le mani nelle tasche degli italiani e via l'ICI sulla prima casa. E come è finita lo sappiamo. Ora ci risiamo e via di questo passo, così conclude l'articolo Enrico Marro, lo trovate a pagina 5 del Corriere della Sera. Certo, è chiaro, si dice sempre in campagna elettorale, la campagna elettorale cos'è? Le promesse di quello che una coalizione o un partito promette di fare se viene eletto per i successivi 5 anni. L'ultima promessa elettorale dunque è questa: via le tasse per gli imprenditori per i primi 4-5 anni che assumono anche una sola persona. Per il resto, ieri la politica ha assistito a un altro giorno di duelli, di battute, controbattute, di dichiarazioni. Berlusconi da Porta a Porta, Bersani a Sky e Monti credo a Radio Monte Carlo si sono un po' incrociati. Le notizie più interessanti riprese dai giornali sono che Bersani è un po' arrabbiato con Monti. La frase l'abbiamo sentita anche nel giornale radio, a dire: ma contro chi combatte Mario Monti? Cioè, bisogna capire qual è la strategia, perché se la strategia è fare un qualcosa che agevola Berlusconi, allora questo non mi sta bene. Contro chi combatte il premier, non faccia favori al cavaliere. Da che parte sta il professore? Questo è il titolo del Corriere della Sera. Oppure il Messaggero, pagina 3, la controffensiva di Bersani: il premier dica chi combatte. Che cosa agita tutto? È la Lombardia, l'intreccio tra Lombardia e Senato che riguarda al centro Gabriele Albertini. Monti ovviamente ha risposto: io non sono stampella di nessuno, perché si adombrava il sospetto da parte di Bersani che fosse la stampella di Berlusconi e quindi aiutasse Berlusconi. Monti ha risposto: io non sono stampella di nessuno. A Berlusconi dice si dovrebbe stabilizzare un po', dice Monti, mentre riguardo a Bersani, centrosinistra, chiamiamola sinistra invece di centrosinistra, cioè Monti vuole ancora sottolineare dal suo punto di vista come la formazione, la coalizione di Bersani, che racchiude anche Vendola, sia una coalizione da definire non di centrosinistra ma di sinistra. Su Berlusconi invece Monti chiede: ha governato 8 anni, perché non ha ridotto le tasse? Insomma, quello che poi anche Enrico Marro sul Corriere della Sera fa in questo riepilogo dell'articolo. Comunque, dicevamo, per gli amanti degli intrecci della politica, i politologi quasi, ovviamente come al solito altro giorno, oggi 10 gennaio, in cui di cose concrete, di programmi per l'Italia, quasi zero di zero sui giornali, tutte schermaglie. Ma per chi vuole appassionarsi alle schermaglie, consiglio l'articolo retroscena di Claudio Tito su Repubblica in prima pagina: la vera partita si gioca al Senato, questo è il titolo, e spiega dove è tutto l'inghippo, l'intreccio della questione tra Bersani, Monti e la Lombardia e la candidatura di Albertini al centro. Albertini sarà capolista al Senato solo se si candida anche per la regione. I due non si parlano più da qualche settimana. Dopo 13 mesi di cordialità e reciproco affidamento, la campagna elettorale ha trasformato Monti e Bersani in due sfidanti, scrive Tito. Incapaci di interloquire, ma questa volta il presidente del Consiglio un messaggio al suo ex alleato preferito l'ha dovuto spedire. Il caso Lombardia infatti si sta innescando come una bomba a tempo. Non è un semplice casus belli, ma la vera partita su cui si gioca il futuro della prossima legislatura, che riguarda il successore di Formigoni, quindi Lombardia, ma soprattutto la maggioranza che si formerà a Palazzo Madama. E qui ho fatto una parentesi, perché la Lombardia elegge molti senatori, è definito la regione chiave, come spesso viene definito nelle elezioni americane, l'Ohio, lo stato chiave per eleggere il presidente. E allora scrive Tito: il premier lo sa che la Lombardia è decisiva e questa volta ha dovuto trasmettere attraverso i suoi ambasciatori un messaggio esplicito al leader democratico Bersani. Albertini corre anche per il Pirellone per non fare vincere la Lega. La corsa al Senato con Monti è solo un paracadute, cioè non dovesse vincere in Lombardia, allora c'è la candidatura al Senato. Ma comunque questa è la rassicurazione che secondo Claudio Tito Monti ha mandato a Bersani. Albertini corre, non si ritira dalla corsa in Lombardia e quindi corre in Lombardia per cercare di ostacolare la vittoria della Lega. La trama segreta di Mario, questo è il titolo: fermiamo la Lega al Pirellone e al Senato mi serve il pareggio. Ma scrive Repubblica, Pierluigi Bersani non si fida molto. Che Albertini, che la Lombardia siano un po' gli aghi della bilancia di questo momento della politica, anche la Stampa lo scrive. Pagina 5, Michele Brambilla: Albertini e le mosse di Formigoni, aghi della bilancia elettorale. L'ex sindaco nel listone del professore al Senato in Lombardia rischia di frenare il Partito Democratico ed è qui che Bersani si è un po' adombrato e da qui nasce la domanda: da che parte sta Monti? Cioè contro chi combatte Monti? E sono anche giorni di formazione di liste. Per la verità il Partito Democratico è quello che le ha già presentate tutte, ma e tra l'altro ecco sulla presentazione delle liste oggi il Fatto Quotidiano, che da giorni picchia duro sulla questione dei cosiddetti impresentabili, anche il Partito Democratico oggi cosa fa? Si concentra in particolare su una persona, Vladimiro Crisafulli, senatore del Partito Democratico. Candidare quest'uomo, questo è il titolo di prima pagina, con la foto di Vladimiro Crisafulli, perché a pagina 2 il Fatto, a firma Marco Lillo, pubblica un dossier che fino a questo momento era top secret, del 30 aprile 2006, quando i carabinieri pedinando, controllando i movimenti del senatore Crisafulli, chiesero alla fine l'arresto in un rapporto che descrive il sistema di potere e le connivenze di colui che ha vinto le primarie ora a Enna in Sicilia per il Partito Democratico. In questa nota finora inedita destinata al PM di Enna, Marcello Cozzolino, i militari pregavano il magistrato di presentare richiesta di arresto per Crisafulli e per altre 12 persone. L'ipotesi di reato era associazione a delinquere finalizzata alla truffa aggravata, alla turbativa delle gare, e segnalava anche molti singoli episodi del reato. Allora pubblica tutto questo il Fatto e si chiede, e chiede al Partito Democratico, è il caso di candidare questa persona? La questione liste invece, sempre stando sul Fatto Quotidiano, imbarazza anche, in questo retroscena pagina 6 a firma Fabrizio D'Esposito, Berlusconi per quel che riguarda Nicola Cosentino, per il quale nella scorsa legislatura si era richiesta anche l'arresto e la Camera aveva respinto la richiesta di arresto da parte dei giudici di Napoli. Perché, scrive il Fatto, Berlusconi non vuole più Nick Americano, come è soprannominato. In realtà è Alfano che ha chiesto la testa di Cosentino, che rischia così di non entrare in lista, scrive il Fatto. E così invece l'UDC, a pagina 5, l'UDC ha trovato all'estero il suo impresentabile, questo secondo il Fatto. Si tratterebbe di Gianluigi Ferretti, già coinvolto nello scandalo Mockbell di Girolamo. Insomma, è tutto uno scandagliare le liste per cercare di capire. Tra l'altro questa mattina invece Mario Monti dovrebbe sul suo profilo Twitter annunciare le liste, la chiusura delle liste e annunciare tutti i nomi. Una vicenda che, per stessa ammissione di Andrea Olivero, ex presidente dell'ACLI, che si candida con Monti, è stata una vicenda, la composizione delle liste con questa legge elettorale, il Porcellum, davvero triste. Perché? Perché sono ore e notti insonne di dibattiti per vedere chi candidare. Beh, la notizia, io oggi l'ho detta un po' scherzosamente alle 6.30, ma la si può vedere anche così. La notizia curiosa delle candidature è che Mario Monti candida la Minetti. Non però Nicole Minetti, ma Annalisa Minetti. Ricordate? La non vedente, cantante, Miss Italia, vincitrice anche di una medaglia alle Paralimpiadi, Annalisa Minetti, candidata alle politiche con Mario Monti. E la seconda sportiva, anche Valentina Vezzali, no? La schermitrice, candidata con Mario Monti. È il momento del traffico. Allora, come detto, stasera Berlusconi andrà da Santoro. È la trasmissione più attesa sicuramente degli ultimi anni dal punto di vista dell'attualità politica. Infatti i giornali si concentrano con il giornale Silvio Michele, duello finale di una sfida durata 20 anni. I bookmakers che danno a 5, quotata a 5, il fatto che Berlusconi lascerà lo studio prima della fine della trasmissione. Il Corriere della Sera racconta che c'è uno sparring partner che in questo momento sta preparando Berlusconi, e si tratta dell'onorevole Renato Brunetta, che lo sta preparando su tutte le questioni economiche, su tutto quello che potrebbero essere le domande. Aldo Grasso, addirittura uno del più autorevole, forse critico televisivo in Italia, anzi senza il forse, che cosa fa? I 10 consigli, a pagina 11 del Corriere della Sera. Ecco i 10 consigli, il decalogo comportamentale per i due contendenti. Silvio Berlusconi e Santoro devono evitare di fare i martiri, numero 1. 2. No a monologhi spacciati come scambio d'opinioni. 3. Quanto a Marco Travaglio, è importante che separi le carriere, intervenga come giornalista e non come pubblico ministero. 4. È severamente proibito abbandonare lo studio, anche solo minacciare di farlo. 5. Le parole proibite. Evitino le parole trite del repertorio, sia Berlusconi che Santoro. Mi consenta, comunista, toghe rosse, giudichesse, piazza, gente, par condicio. Evitare 6. Ogni tipo di clac, non siamo né a teatro né allo stadio. 7. Berlusconi non deve mai far presente a Santoro che è stato suo dipendente in anni passati. 8. Santoro non deve mai cedere all'autoreferenzialità. 9. A volte servilismo e ribellismo sono le due facce della stessa medaglia, evitare nel modo più assoluto di fare la parte in commedia. 10. Cancellare l'editto bulgaro. Un gesto che non ha fatto onore a Berlusconi, che si è rifiutato sprezzantemente di concedere un'intervista a Biagi. Non resta che affidare, e questo scrive Aldo Grasso, una prima serata a Luttazzi. su Mediaset, ovviamente. E che succederà? Tornerà a parlare, a bollare come comuniste le giudichesse che hanno sentenziato, che dovrà dare 100.000 euro, sono 100.000, poi non so perché si è confuso dicendo 200.000, in realtà sono 100.000 euro al giorno che dovrà dare Silvio Berlusconi di alimenti a Veronica Lario, ma ci sarà l'appello. Parleremo di questo, di questa uscita, giudichesse comuniste e femministe, con Livia Pomodoro, presidente del Tribunale di Milano, alle 8.15 in diretta. Tra l'altro Libero racconta chi sono in prima pagina queste giudichesse, le tre giudichesse Spolpacav: Gloria Servetti, Nadia dell'Arciprete, Anna Cattaneo. Quest'ultima, come abbiamo sentito anche nella zanzara di Giuseppe Cruciani, Anna Cattaneo è stata tra l'altro l'ex fidanzata di Gabriele Albertini, che è l'uomo chiave di queste elezioni in Lombardia. Vedete come tutto si intreccia, come tutto torna, poi un filo unico che tiene insieme tutto. Paolo Colonnello sulla stampa racconta a pagina 8 quando i radicali definirono di destra due delle tre giudici. È quella vicenda del 2010 dove le tre giudichesse femministe comuniste, ormai è diventato uno slogan di Silvio Berlusconi, due di queste fecero una sentenza diventata oggetto di una scandalizzata interrogazione parlamentare dei radicali a firma Rita Bernardini, che lamentava come le giudici Gloria Servetti e Anna Cattaneo della nona sezione civile del Tribunale di Milano avessero respinto il ricorso di un padre che si era opposto alla decisione della ex moglie di far frequentare corsi di catechismo al figlio, un verdetto ben poco bolscevico insomma, e le accusarono di essere in qualche modo indottrinate dalla dottrina cattolica e di destra. Ecco, vedete che poi sentenza che emetti, giudizio che ti becchi, si potrebbe dire così. Parliamo dei mutui. Questa non è una buona notizia, perché il Sole 24 Ore per l'ennesimo giorno apre su temi concreti, vale a dire che riguardano tutti gli italiani, come in questo caso la casa e il credito. Ebbene, il costo del denaro ai minimi a spingere al ribasso il costo dei mutui in Europa. La media scende ai minimi storici, si arriva a una tassa europea del 3,35%, ripeto 3,35% il tasso medio. In Germania si paga un tasso del 2,92%, in Austria del 2,97%, in Spagna del 3,06%, dunque ben al di sotto del 3,35% di media. Indovinate qual è il paese europeo dove i tassi dei mutui sono i più alti? Ebbene sì, abbiamo questo straordinario record. In Italia restano al 4,05%. Mutuo in Italia, il conto resta salato. Trovate tutti i dettagli a firma Maximilian Cellino a pagina 3 del Sole 24 Ore. Non siamo ben orgogliosi di avere questo primato in classifica. Per quel che riguarda invece la cronaca, c'è molto sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia, perché il presidente della commissione antimafia Pisanu, come scrive Giovanni Bianconi in un articolo a pagina 22 del Corriere della Sera, ma su tutti i giornali c'è questa decisione, queste conclusioni a cui sono arrivati, ha stabilito che cosa? Oggi possiamo collocare le stragi del 92-93 nel contesto tormentato della transizione politica dalla prima alla seconda repubblica, questo sostiene Pisanu, e spiega se in quella stagione si mise in opera una strategia della tensione, Cosa Nostra ne fece parte, o meglio fu parte del torbido intreccio di forze illegali e liberali che cercarono di orientare i fatti a loro specifico vantaggio, con l'obiettivo di ristabilire quel rapporto di convivenza con lo Stato che era stato rotto. Alla fine sembra logico, più che parlare di trattativa, di una tacita e parziale intesa tra parti in conflitto, ma senza alcun mandato politico dal vertice delle istituzioni. Dunque non una trattativa vera e propria con mandanti politici a trattare con Cosa Nostra, ma una tacita intesa tra pezzi di Cosa Nostra e pezzi delle istituzioni. Non c'era alcun mandato politico, ma tacite intese con i boss e non dei vertici dello Stato. Questo secondo la commissione antimafia. Vi tranquillizza? Beh, insomma. Voglio chiudere con, vi ricordate, Cesare Battisti, quattro ergastoli mai scontati per uccisioni, quando faceva parte nell'epoca del terrorismo del gruppo armato per cui è stato condannato a 4 ergastoli, è fuggito in Francia, ora è in Brasile, bello, libero, tranquillo. Torna sulle prime pagine dei giornali italiani perché è rimasto senza lavoro. E a 58 anni ha trovato un lavoro. Pare che lo stia per trovare nel maggiore sindacato brasiliano, il sindacato vicino al partito dell'ex presidente Lula. Il sindacato di Lula assume Battisti. Così pagina 17 di Repubblica. Homero Chai, il grande sponsor brasiliano dell'ex terrorista dei PAC, non lo abbandona, in difficoltà col suo lavoro di scrittore di libri. Cesare Battisti sarà presto assunto con un incarico professionale dal maggior sindacato del Brasile, storicamente molto vicino al partito dell'ex presidente Lula. Eccolo qua, per il momento 0 dichiarazioni ufficiali, ma evidentemente, visto che non ha successo come scrittore di libri, anche libero scrive, Battisti trova un lavoro, ormai è una celebrità in Brasile, nel sindacato di Lula. E i parenti delle vittime invece aspettano e aspetteranno invano che possa scontare la condanna definitiva a 4 ergastoli in Italia. Il giornale radio e poi rientriamo con gli ospiti.